Chissà quando sua figlia, caro Frick, le chiederà qualcosa per il suo bat mitzvah. O non lo farà? No, ma forse no. Credo non lo farà perché non so esattamente cosa sia questa è una festività. È una ricorrenza ebraica. Il dodicesimo anno è la maggiore età della religione ebraica, si chiama Bat Mitzvah. E solitamente le figlie, quando hanno un padre multimiliardario, possono permettere di chiedere quello che vogliono loro. Ah, beh, questo sì, questa seconda parte. È certo. Il caso di Elisabeth e della domanda del test attitudinale di quest'oggi, che chiese forse una lezione privata con Jimmy Page, così per imparare i primi accordi sulla chitarra? Ma può anche essere, ma noi non risulta. Non è andata così. E allora forse chiese ed ottenne un concerto privato con, così, non lo so, Tom Petty, gli Aerosmith ed altri? Ma quasi quasi le dico che in effetti ci risulta. È andata così. E allora, risposta esatta, si tenne il concerto al Rainbow Room di New York. Segnaliamo che il buon 50 Cent, che non è un rocker ma un ippopettaro, però per cantare, per modificare il testo della sua canzone in Go Shorty, It's Your Bat Mitzvah, anziché It's Your Party, chiese $500,000 e glieli diedero. Ah, complimenti. Che invidia. Facciamo anche sapere che il tutto, così, festa, alberghi, voli e quant'altro, costò $10,000,000. E vabbè, se ce li hai, però io figlio, li avrei spesi in un altro modo. Anch'io, guarda. No, per la figlia, ma voglio dire, idee forse un attimo più pratiche, venire, più vabbè, sostanziose, ma comunque. Sappiate che non chiese mai l'affitto di Graceland. Peccato, perché anche quella era una bella idea. Beh, sì, infatti. Vabbè. Se avete azzeccato, complimenti, altrimenti restate su PBR. Rocker, vi ci facciamo diventare noi. A suon di quiz. E di schiaffoni. Beh, nel senso buono, naturalmente. I see you tonight. And what do you see? Led Zeppelin, 8 e 40 minuti primi, questa è la diretta sulle frequenze di Rock FM. Spargete la voce, siamo tornati noi di Pane, Burro e Rock and Roll, quelli della nicchia vincerà, quelli del test attitudinale, quelli della patente da vero rocker, quelli che hanno Roberto Fricantoni in esclusiva, e chi altri se lo sarebbero potuti prendere. Il buongiorno e il buon anno, già che ci siamo, dalla voce dell'Ariele in questo mercoledì 2 gennaio, dove con piacere riprendiamo i ritmi della mattina. Molte rubriche classiche della nostra trasmissione sono rimaste, lo ricordo agli amici che si sintonizzano solo ora, fortunati voi, vuol dire che stavate dormendo. Molte invece le novità, che sale un po' la tensione, come ogni volta che qui a Pane, Burro e Rock and Roll lanciamo nuove sfide, nuove campagne di sensibilizzazione. Inutile ricordarvi la fortunata campagna di questa estate per salvare la cartolina postale, oppure le campagne a favore di un Natale rock appena terminata, o ancora la campagna per far arrivare il Nobel a Roberto Fricantoni. Insomma, spesso e volentieri qua, appena c'è il minimo pretesto, ci tuffiamo a testa bassa in qualche nuova stupidata. Ne avremo una pronta, sì, una nuova, visto che col Nobel non è andata bene. Stavamo ragionando a far arrivare una, che ne so, una laurea honoris causa a Roberto Fricantoni? Potrebbe essere un'ottima idea, anzi lo è. E quindi nel corso di questa ultima mezz'ora di diretta lanceremo una nuova campagna. Invece per gli amanti delle tradizioni, per gli abitudinari all'ascolto, c'è l'appuntamento con Frigo e Rogna, le nostre cavie da esperimento, che nel periodo natalizio ci avevano un po' abbandonato, tornano a tenerci compagnia in questa puntata 152 di Pane, Burro e Rock and Roll, che prosegue con la musica di Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è Woodstock. We'll be right back. tedesca. Si chiama Sigaro Frigo. Ma come parli, Rugna? Parlo inglese. Chiamami Winston. Sono Churchill. Cazzo dici, Rugna? Sei la solita caglia di sempre. No, grazie agli esperimenti degli amici umani, oggi posso dire di essere migliorato. Senti che slogan. Blood, sweat and tears. Te stai messo male, Rugna. Churchill, per favore, Winston, please. E ricordati che sono sempre un grande statista. Giovinotto, stai solo attenti. Guarda, Rugna, che se proprio vogliamo parlare di statistiche, te sei messo male. Non credo tu possa reggere ancora molto. Guarda che ti rivinco la seconda guerra mondiale. Time to call now. Ariel, lei è pronto? Io sono pronto, c'è una notizia che non può passare inosservata, pane, burro e rock and roll. Mi farebbe il cappello a questa notiziuola? Lei sa che nel dicembre 2007 la Università Ulm, libera Università di Lingue e Comunicazioni, ha conferito a Mike Bongiorno la laurea honoris causa per aver insegnato l'italiano agli italiani. Ah, ma ci crede? Rabbia, che rabbia, che rabbia! Pane, burro e rock and roll non ci sta! E allora, nuova rubrica, disimpariamo l'italiano agli italiani. Esatto, controcorrente. Ovviamente, amici, come tutto quello che accade a pane, burro e rock and roll, cerchiamo l'aiuto dei nostri amici là fuori. Abbiamo degli inviati che ci aiuteranno in questo nuovo viaggio all'interno dei dialetti italiani. E me lo lasci dire, inviati molto speciali. Iniziamo, e sono abbastanza emozionato perché il primo inviato di quest'oggi si chiama Pietro e ci aiuterà a disimparare l'italiano. Buongiorno Pietro. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Pietro. Buongiorno Frick. Grazie, allora, buongiorno a te, a lei, a cercheremo te. Diversi inviati sparsi in Italia per imparare i modi di dire, i dialetti, i proverbi regionali. Tu in cosa ci aiuterai? Ti aiuterò a disimparare, anzi a imparare il calabrese. Calabrese, oh. Quindi disimpariamo l'italiano col calabrese. Calabrese in generale o specifico di qualche zona? Del sud o del nord o del centro? Del centro. Del centro, del centro. Calabria centro, insomma. Frick, come te la senti col calabrese? Non so, proverò perché voglio veramente imparare. Allora, in barba... Mi aspetto molto. In barba a Mike Bongiorno, caro Pietro, illuminaci con la parola di oggi, il modo di dire, il proverbio. Cosa hai scelto? Allora, vi illuminerò con un proverbio. Un proverbio? Sì. Va bene. Sì. Allora, il proverbio è questo. U porca la montagna e l'acqua vulle. U porca la montagna e l'acqua... Allora, potrei farcela, sì. Che cosa vuol dire, Pietro? Beh, vuol dire che il maiale è pronto a essere ucciso e non è stato ancora portato in paese, ancora in campagna. Ce lo puoi ridire perfettamente come suonava? Allora, un porco è alla montagna e l'acqua bulle. Dai, proviamo a dirlo insieme. Provate pure, seguitemi. Sì, allora, dai. Ci provo io, Frick. Un porco è alla montagna e l'acqua bulle. Beh, si può fare di meglio, mi aspetto di meglio. Dai, allora fammelo risentire, sì, scusami. Sì. Dai, un porco è alla montagna e l'acqua bulle. Un porco alla montagna e l'acqua bulle. Beh, ci stiamo avvicinando. Pietro non è molto soddisfatto. Un porco. No, upwork. Fammelo pezzettini che mi viene bene. Upwork. Upwork è alla montagna. È alla montagna. È l'acqua bulle. È l'acqua bulle. È l'acqua bulle. Pietro, ci sentiamo presto. Un altro, veloce, maestro, su un altro. Non c'è il tempo, ma lei veloce, vuole sempre... Veloce, un altro. Io lo lascerei per una prossima intervento. Guarda Pietro, questa è una promessa. Ma ero caldo. Sì, no, capito. Un po' erca la montagna, l'acqua vulle. Grazie Pietro, a presto. Grazie a voi, per oggi direi pane in due e rock and roll. Perfetto, ciao Pietro. Ciao. Disimparate l'italiano con noi. Thank you. svelate le carte anche sulla nuova campagna di sensibilizzazione di Pane, Burro e Rock and Roll. Arriviamo a 3 minuti alle 9 del mattino e ormai dobbiamo ritornare ad avere le nostre abitudini. È finita anche oggi. Archiviamo la prima puntata del 2008, la 152, rinnovandovi l'appuntamento a domani dalle 7 alle 9. Appuntamenti per il weekend, cosa posso ricordarvi? Sabato sera, gli amici milanesi interessati al mio DJ set o al calendario 2008, l'anno della svolta, mi trovate all'Atomic Bar qui a Milano insieme all'Operaio del Rock and Roll per un bel po' di sana musica da ballare. E non andiamo con la sigla, già pronto Marco Garavelli dall'altra parte del vetro. Tanti avete continuato a scrivere al 335-100-7777, non si butta via niente. Pane, burro e rock and roll. Vi teniamo tutto archiviato qua, eh? La tua colazione rock. Tutti voi che avete segnalato idee, proposte. Pane, burro e rock and roll. Avete fatto bene a farlo, non ve ne pentirete. It's very good indeed. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. E tra le vecchie abitudini che torniamo volentieri ad avere c'è quella di augurare una buona giornata e anche un buon 2008 a Marco Garavelli. Grazie anche a te, naturalmente. È il primo cambio questo, eh? Bello imbattucato con sciarpa, giacchetta. Di solito le ultime volte c'era il raggio di sole che entrava, oggi ce lo scordiamo, eh? Sa che tra poco arrivano i fiocchi. Oh, Garavelli stamattina alle 6.50 puntuale dice: oh, aria, nevica stanotte. Devo andare a cambiare le gomme perché nevica. Tu sei convinto? Dove l'hai sentita sta cosa? Cioè, i telegiornali, robe così, meteorologia? Esatto. Sei convinto? Perché secondo me oggi faceva meno freddo del solito. Appunto, se si alza la temperatura... Nevica. No, non lo... ma non deve essere sotto zero per nevicare? No, un po'. Appena sopra lo zero può bastare, eh? Almeno che qualcuno abbia qualcosa da ridire e poi ci correggerà. Caravelli, noi possiamo dire quello che ci pare e piace col microfono aperto a Rock FM. Giusto. In realtà prenderei come consuetudine quella di dedicare l'ultimo minutino al reparto meteorologia che manca in Pane, Burro, Rock and Roll. Quindi Garavelli, se vuoi prenderti l'onere e l'onore di farci le previsioni del tempo per il giorno dopo, noi siamo pronti. Quindi nevica. Il colonnello Garavelli. Il colonnello Garavelli. Ma su tutta la frequenza? No. Allora facciamo che con calma mettiamo in piedi sta rubrica. Va okay? Bene. Non facciamoci la testa. In compagnia su una... In compagnia sua fino al mezzodì. E poi il Mox Cristadoro mi ritorna. Mi ritorna oggi, mi ritorna. Se non mi sbaglio. Una domanda inquietante, se ci sbagliamo. Speriamo di sbagliarci. Speriamo, no, vabbè. Stiamo ovviamente scherzando. Buona giornata. Ciao.